come un fermo immagine, l'ombra di noi due è ormai. Nasconde solo ruggine, senza alcuna nostalgia, questo addio. Siamo come altalene che il vento non spingerà, il finale imperfetto di un film che conosco a metà. Riesco a raccogliere le parole delle tue favole. Via da qui.